Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. E la locomotiva sembrava fosse un mostro strano, che l'uomo dominava con il pensiero e con la mano. 8 miliardi di euro di finanziamenti che vanno ad aggiungersi ai 9 miliardi già previsti nel 2015. L'obiettivo è di avvicinarsi ai livelli europei e di aumentare nei prossimi 3 anni, del 40%, i servizi ferroviari intermodali. La parola chiave è quindi intermodalità, e cioè l'utilizzo di diversi sistemi di trasporto integrati fra loro per ottenere maggiore velocità e minore impatto ambientale. Per fare questo sono necessarie reti ferroviarie funzionali, strade adeguate, porti e interporti ben collegati. La cosiddetta cura del ferro prevede infatti azioni che guardano a infrastrutture, nuove regole e maggiori incentivi. Il tutto guardando con attenzione all'evoluzione del trasporto merci su strada, un settore che muove l'80% delle merci in Italia e che resta l'unico sistema possibile per la distribuzione urbana delle merci. Un treno tutti i giorni passava per la sua stazione. Salve a tutti, da Massimo De Donato e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Circa 17 miliardi di euro per rilanciare il ruolo delle ferrovie sia per il trasporto dei passeggeri sia anche per quello delle merci. Una modalità, quella del trasporto ferroviario delle merci, che negli ultimi anni ha perso importanti quote di mercato a causa della scarsa flessibilità e di una velocità commerciale tra le più basse d'Europa. Un intervento, quello sulle ferrovie, che si affianca allo sviluppo delle autostrade del mare, per le quali ci sarà anche un incentivo, il cosiddetto mare bonus. Insomma, il futuro del trasporto merci sarà sempre più intermodale, con il trasporto su strada che dovrà sempre più dialogare con tutte le altre modalità. Ne parliamo in compagnia dei nostri ospiti Ennio Cascetta, coordinatore della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e Paolo Ugè, vicepresidente di Confcommercio e presidente di Conftrasporto. Cascetta, come saranno superate le difficoltà di cui parlavamo prima, e cioè quelle legate soprattutto a questa bassa velocità commerciale, e in cosa consistono questi interventi, questi investimenti sulle ferrovie? L'approccio che noi abbiamo messo in campo, declinando quella che il ministro Delrio definisce la cura del ferro per le merci, è un approccio di sistema. Noi siamo convinti che per far recuperare alle ferrovie il trasporto merci una quota di mercato paragonabile a quella degli altri paesi europei, ricordo noi siamo al 12% contro una media del 18%, con punte del 30% per la Germania e addirittura del 65% della Svizzera. Quindi l'Italia trasporta troppe poche merci su ferrovia, non si può invertire questa tendenza per un editto, ma bisogna creare le condizioni di mercato affinché sia più conveniente utilizzare la ferrovia soprattutto per le medie e lunghe percorrenze. Quindi per raggiungere questo obiettivo si è messa in campo una strategia che mette insieme a sistema appunto diversi tipi di intervento. Innanzitutto interventi infrastrutturali, che però sappiamo avranno tempi medio e medio lunghi e che però vanno programmati oggi per essere pronti domani. Cominciando proprio da quegli interventi più semplici che riguardano i collegamenti di ultimo miglio della rete ferroviaria con i principali porti, i principali interporti, i principali centri merci del nostro paese. Noi vorremmo che sui collegamenti forti del paese ci fosse la possibilità di trasportare treni più lunghi con un modulo di 750 metri che è il modulo standard europeo, treni più pesanti, 1600 tonnellate, e con una sagoma nelle gallerie, nei ponti, eccetera, che consenta di trasportare su questi treni i semirimorchi per dare veramente una risposta intermodale. Nel senso stretto del termine. Ecco, a proposito di semirimorchi, Ugè, quale sarà il ruolo dell'autotrasporto in questo scenario che si andrà modificando nei prossimi anni? Innanzitutto l'approccio che il ministro Delrio ha voluto dare a questa nuovo modo di gestire i trasporti ci vede molto consenzienti. Finora abbiamo affrontato i temi del trasporto non secondo una logica di sistema. Una delle battaglie, delle richieste di Contrasporto è sempre stata quella di avere addirittura un sottosegretariato, un dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, qualcuno che a livello politico affrontasse tutte le questioni legate alla mobilità e al trasporto. Aver affrontato i temi della portualità, della retroportualità e adesso questi due interventi a favore sia dell'autostrada del mare e a favore dello sviluppo del trasporto combinato non possono che vederci consenzienti, e l'autotrasporto ha creato le condizioni, d'accordo con il ministro Del Rio, abbiamo trovato ovviamente una accondiscendenza molto positiva, per cui alcuni risparmi effettuati sui trasferimenti che lo Stato dà all'autotrasporto sono stati destinati proprio per finanziare lo sviluppo di queste modalità. Quindi noi siamo perfettamente in linea. La domanda è: riusciremo a far funzionare questo sistema? Perché, come diceva bene il professor Cascetta, se poi non abbiamo la retroportualità che funziona, abbiamo i treni che sono hanno delle portate inferiori o hanno moduli inferiori rispetto a quelli che vengono in Europa, il rischio qual è? Che se noi non attrezziamo la nostra rete, faccio l'esempio del porto di Genova, se noi non riusciamo ad attrezzare bene quella realtà lì, il rischio è che le merci da Rotterdam scendano in Italia, passino verso est e rendano di fatto poco competitivo il maggior porto che abbiamo in Italia, che è quello di Genova. Quindi dobbiamo lavorare per creare le condizioni in sinergia. Io ho detto che dobbiamo connettersi per competere. Le modalità devono vedere un modo nuovo di affrontare gli argomenti come logica di sistema e non più come canne d'organo, così come veniva detto in un documento, certo, del Ministero in questi giorni. Cascetta, questo discorso del dialogo fra modalità è un discorso sicuramente centrale e che farà la differenza fra un modello vincente e uno non vincente. Ed è un discorso che è anche alla base della riforma portuale, che non a caso prevede anche una sorta di riforma della logistica italiana. Il piano che è stato approvato si chiama Piano Strategico della Portualità e della Logistica, quindi proprio la parola logistica è già nel titolo oltre che nei contenuti. Noi abbiamo chiaro che i porti sono fra i principali nodi logistici del paese, per un paese come il nostro che importa i 2/3 delle merci via mare ed esporta il 50% delle proprie produzioni via mare, quindi il fronte del mare, diciamo così, è fondamentale per l'economia del paese. Quindi rendere più efficienti i nostri porti, più competitivi, è un must, diciamo, che è alla base del piano che è stato sviluppato. Un piano che non prevede solo e non tanto investimenti infrastrutturali, ci sono anche quelli, ma prevede appunto la messa a sistema e lo scioglimento e la semplificazione di una serie di nodi che rendono i nostri porti poco competitivi, dalle difficoltà per fare gli escavi, per approfondire, certo, i porti in modo da poter ospitare le nuove navi portacontainer, alle procedure doganali, alle procedure di imbarco e sbarco delle merci. Cioè ci sono tanti interventi immateriali che hanno una valenza più immediata e ha la possibilità di dare immediatamente risposte a un sistema portuale come quello italiano, che negli ultimi anni non ha brillato, perché poi il punto di partenza è questo: se noi confrontiamo l'andamento dei traffici dei porti italiani con quelli degli altri porti del Mediterraneo, noi siamo stati fermi o addirittura siamo andati un po' indietro, gli altri sono andati molto avanti. Uge, strettamente legato al tema dell'intermodalità c'è anche quello della sostenibilità, e anche in questo caso l'autotrasporto ha fatto negli ultimi anni dei passi da gigante. Basti pensare a tutte le iniziative previste dall'ultima legge di stabilità proprio per favorire la sostenibilità ambientale dell'autotrasporto. Ricordo proprio quanto detto all'inizio, che aver legato la ricerca di risorse, il recupero di risorse sull'accisa che ho riconosciuto solo a veicoli ecologicamente più avanzati è una scelta che ha fatto l'Associazione degli Autotrasportatori, ma è una scelta che è presente anche nelle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali. Anche lì i veicoli ecologicamente non rispondenti non ottengono questo incentivo. Quindi noi dobbiamo, e siamo convinti di seguire questa strada. Quanto diceva il professor Cascetta prima è credo fondamentale. La logistica è tempo, la riduzione dei costi arriva proprio attraverso la realizzazione di una piattaforma informatica che mi pare il Ministero ha deciso di portare avanti, sulla quale noi